Se l'Udinese avesse battuto l'Arsenal ed eliminato dunque l'Arsenal, Dumblé avrebbe preso quasi 4 milioni di euro, cioè 3,9 milioni di euro, che sono una discreta botta. Se tu pensi che la vincitrice dell'Europa League, cioè quella che arriva fino in fondo, ne prende 3. Quindi capisci che non c'è veramente paragone tra le due cose. E quindi io capisco anche quelli che tutto sommato la disputano di malavoglia, ecco, non capisco quelli che si fanno eliminare, non dico apposta ma quasi, perché quando ci sei, certo. E quindi a parer mio davvero l'UEFA deve fare una riflessione molto importante intanto su come piazzarla, perché giovedì è veramente sì. Troppo vicino al campionato, e poi come remunerarla. Sì, perché, non so, qualche piccolo esempio. Allora, intanto tu dicevi che tu ricordavi che cosa ci ha già rimesso l'Udinese, no? Per quella sì. Doppia sfortunata partita con l'Arsenal. Ma perdonami Gigi, molto di più, perché mettiamo il caso che l'Udinese fosse passata contro l'Arsenal, avrebbe comunque disputato degli incontri, avrebbe disputato 5 incontri con le squadre del girone. Questo significa che avrebbe preso 550.000 euro per ogni incontro. Mettiamo che li avesse persi tutti, mettiamo di perderli tutti, alla fine siamo a una cifra che è superiore ai 7 milioni di euro, che voglio dire, l'Udinese quest'anno magari non ne aveva tanto bisogno, ma ci sono squadre che per questa cifra farebbero dei ceri. Se pensi che lo scorso anno lo Zilina, no? Un altro di questi dati ricavati qua, adesso smettiamo di citarlo perché sennò poi diventa imbarazzante. Se no poi lui cita noi. Certo, lo scorso anno lo Zilina ha disputato un girone di Champions, ha perso 6 partite su 6, ha fatto 3 gol, ha beccato 19, insomma diciamo che non ha lasciato tracce memorabili nella storia del calcio europeo, ha incassato 7 milioni e mezzo per questa simpatica comparsata.